insomma, argomento di grande attualità. In effetti lascia un po' in ombra altre iniziative che si stanno realizzando, insomma, che solo pochi giorni fa, proprio a seguito dell'incontro Monti-Hollande del 3 scorso, i giornali ne hanno fatto cenno, e cioè che il trasporto su gomma non è per niente da meno dal punto di vista delle iniziative. Ecco, se puoi spiegarci, illustrarci questo aspetto, insomma. Sì, volentieri, anche perché i giornali italiani hanno riferito poco e male la sostanza di questo vertice, di questo sommet ennesimo tra Francia e Italia che si è svolto lunedì a Lione, e hanno concentrato la loro attenzione sul problema ormai divenuto nell'immaginario collettivo, insomma, assimilabile all'acronimo TAV, no? Treno ad alta velocità, mentre in realtà in questo vertice si è parlato soprattutto d'altro. E tra le altre cose di cui si è parlato, spiccano due interventi importanti di carattere autostradale o comunque viario, quindi caratterizzanti il trasporto su gomma. Uno è non intanto il via libera al raddoppio del traforo autostradale del Frejus, perché il via libera era già stato dato e in Francia i lavori sono già partiti da mesi di realizzazione della cosiddetta seconda canna, vale a dire di una seconda galleria affiancata a quella esistente autostradale. Ma anche diciamo, al via libera normativo, alla possibilità che questa seconda canna venga utilizzata per farci transitare dentro i veicoli. Può sembrare un dettaglio marginale, perché a buon senso chiunque poteva immaginare fin da subito, vedendo il progetto, che essendo questa galleria spacciata inizialmente perché potesse venire approvata come galleria di sicurezza, vale a dire galleria nella quale i mezzi di soccorso avrebbero dovuto transitare velocemente, i mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze, eccetera, per andare a soccorrere in caso di incidente i malcapitati che fossero rimasti imprigionati al centro o comunque molto all'interno della montagna. Adesso si dice esplicitamente, questo è l'esito del vertice, appunto, no, questa seconda canna la usiamo per farci passare dentro il traffico. Quindi la canna esistente verrà da doppio senso di marcia, come oggi verrà ricondotta a senso unico di marcia, e una delle due corsie, insomma, dovrebbe venire utilizzata per il passaggio dei mezzi di soccorso, e anche quella nuova dovrebbe avere questo tipo di conformazione e di caratteristiche. Scusa, Questa se, qua, evidentemente scusami, questa figura. quando parli di automezzi, ovviamente per automezzi si intendono anche gli automezzi pesanti, non solo le automobili, insomma. Soprattutto gli automezzi pesanti, che costituiscono anche, insomma, la parte più succulenta dal punto Sì, di vista dati degli i incassi pedaggi, certo, sì. dei pedaggi, insomma, per chi gestisce questa autostrada, che è una società che è nata come tutte le società autostradali pubbliche e poi è stata privatizzata con lo schema caro all'Italia, in cui si privatizzano sempre i profitti e invece pubblicizzano le perdite. Il settore autostradale non fa eccezione, non a caso alcuni grandi gruppi finanziari come i Benetton sono entrati in questo business qualche anno fa, quando ormai la parte grande dell'impegno finanziario necessario per realizzare le autostrade era pressoché terminato, e quindi c'era solo più da riscuotere i pedaggi e fare manutenzioni straordinarie, che oltretutto si fanno potendo affidare, grazie alla legislazione esistente, i lavori a se stessi in buona parte, quindi alle imprese di riferimento degli stessi gruppi di gestione, e quindi questo consente di massimizzare gli utili, no? Oltre che la questione quindi Del del Frejus. traforo del raddoppio del traforo del Frejus, questo stesso schema problema di funzionamento, quindi questo potenziamento sostanzialmente della viabilità, sempre all'interno del vertice di lunedì è stata anche decisa per quanto riguarda un traforo un po' meno conosciuto forse dell'opinione pubblica, perché non se ne parla così tanto, ma che è il traforo del Tenda, che si colloca più o meno a metà strada tra la direttrice del Freius ferroviaria stradale e la direttrice di Ventimiglia, anch'essa ferroviaria stradale, dove però la parte del Leone la fa la strada, perché se pensiamo che l'autostrada dei Fiori è forse quindi l'autostrada che da Genova va verso Ventimiglia, Mentone, Nizza, eccetera, è forse la più trafficata in assoluto di questo arco alpino, di questo pezzo di arco alpino, molto trafficata dai mezzi pesanti, si capisce l'importanza anche di costruire una nuova galleria al Colle di Tenda. Quindi un altro buco attraverso le Alpi che, messo insieme al raddoppio del Frejus, pone la domanda, dice: ma allora la TAV, il TAV che lo fanno a fare? Cioè, perché diventano concorrenziali in qualche modo o no? Caspita, alproché se diventano concorrenziali, non c'è il minimo dubbio che in questo momento il trasporto di merci, soprattutto di cose tra l'Italia e la Francia, pur essendo complessivamente in calo e da prima del 2008, quindi da prima che scoppiasse la grande crisi globale, è comunque prevalentemente svolto su ferrovia. Su gomma, no? La ferrovia non è che non sarebbe già oggi in grado di competere, sia la tratta ferroviaria tra Genova e Ventimiglia, sia l'esistente ferrovia che conduce al traforo del Freio da Torino a Bardonecchia e oltre, sarebbero assolutamente in grado di assorbire quote di traffico enormemente superiori a quelle che attualmente la impegnano. Oggi come oggi, per esempio, il traforo del Freus si è attestato, con un piccolo rimbalzo che c'è stato nell'ultimo anno, a poco più di 3 milioni di tonnellate di merci all'anno. Gli stessi studi preliminari alla realizzazione della nuova ferrovia Torino-Lione, del nuovo tunnel di base di 57 km sotto le Alpi, hanno ammesso che si potrebbero trasportare allo stato attuale, così come oggi questa ferrovia, si potrebbero tranquillamente trasportare oltre 20 milioni di tonnellate di merci. Qualcuno addirittura ipotizza oltre 30 tonnellate di merci all'anno. Questo qualcuno non è un ambientalista, un notavo, un qualcuno che insomma dà i numeri all'otto, ma è la commissione che è stata incaricata all'interno dell'osservatorio diretto dall'architetto Virano di redigere i quaderni cosiddetti dell'osservatorio, nei quali queste cifre sono riportate su carta intestata Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano. Quindi questi numeri che ho dato dimostrano ampiamente, anche se utilizziamo il più basso, quello attorno a 20 milioni di tonnellate, che se oggi ne passano poco più di 3, possiamo tranquillamente moltiplicare per 5, se non addirittura per 6 questa cifra, e staremo ancora all'interno della possibilità di trasportare moltissime merci senza dover ricorrere a una nuova grande opera. Se in più si potenzia la possibilità stradale, aggiungendo addirittura 2 nuove gallerie, come abbiamo detto prima, evidentemente andiamo a dimensioni, alla possibilità di trasportare tra Italia e Francia su questo pezzo di Arco Alpino oltre 50 milioni di tonnellate di merci senza alcun problema. Oggi come oggi siamo al di sotto di questa, nettamente al di sotto insomma di questa capacità, e non si capisce quindi a questo punto perché diavolo continuare a buttare soldi dei cittadini, soldi pubblici, dentro a opere che appaiono superflue, che appaiono del tutto sovradimensionate rispetto alle esigenze. Eh sì, e questo mi sembra proprio dalle cose che dicevi il dato essenziale, cioè tutte queste opere, mettendole insieme come opere di interconnessione per nodi di stradali o ferroviari di trasporto, sono comunque, il dato generale è che sono comunque sovradimensionate rispetto alla situazione dello scambio di merci attuale, e anche direi quella futura, perché pur immaginando di superare questa crisi generale, non credo, e tornando ai livelli precedenti come dicevi tu, credo che queste opere siano estremamente sovrabbondanti comunque. Quindi è più che giusta la domanda, ma credo che tu facevi, ma credo che tu abbia anche una, se non generale, ma almeno una parziale risposta, e cioè allora quali interessi si vanno a favorire in questa circostanza proprio per la realizzazione contemporanea di tunnel autostradali e tunnel ferroviari? Guarda, proprio ieri sera noi abbiamo fatto una delle, per noi intendo il movimento Notav, che non sta fermo mai, insomma, che al di là delle iniziative già calendarizzate per l'8 di dicembre, che consisteranno in una manifestazione popolare che mantenga viva la sensazione anche all'esterno del perdurante dissenso rispetto all'inizio dei primi lavori preliminari concernenti la galleria geognostica di Chiomonte, vale a dire la galleria esplorativa, per poi realizzare eventualmente il tunnel ferroviario vero e proprio fa un po' di anni, perché questo non è stato chiarito neanche dal vertice tanto celebrato di lunedì, se e quando e come. Ecco, al di là di questa iniziativa, al di là del fatto che la sera stessa dell'8 dicembre faremo la terza giornata europea contro le grandi opere inutili, dandole una valenza euro-mediterranea, perché proveremo a collegarci, nonostante le difficoltà di questi giorni drammatiche, con il Cairo, con Atene, con Madrid e anche con la Cisgiordania, dove recentemente è stata invitata un esponente del movimento Notav nell'ambito di una di un convegno, di una conferenza voluta dall'associazione Anlint proprio per la cooperazione culturale tra i popoli euro-mediterranei. Ecco, direi al di là di queste iniziative noi svolgiamo continuamente degli incontri, delle conferenze, dei dibattiti eccetera. Ieri sera ce n'è stato uno con un psicologo del lavoro che si chiama Michele Roccato, uno studioso dell'università, un professore dell'università di Torino, nel quale ci siamo interrogati sul fatto se la nostra è una lotta NIMBY, come viene definita dai nostri denigratori, o se invece non sia una lotta che dovrebbe riguardare non solo la Val di Susa, non solo il nostro giardino, non solo il nostro cortile, ma dovrebbe riguardare tutti gli italiani. E proprio perché siamo in polemica con chi ci definisce NIMBY, cioè attenti al nostro cortile, noi chiamiamo queste conferenze, inseriamo queste conferenze in un ciclo che abbiamo polemicamente chiamato, provocatoriamente chiamato, il grande cortile, dove per grande cortile intendiamo un po' il mondo, questo mondo globalizzato. Sì, sì, lo conosciamo, ecco, il grande cortile come... Sì. Ecco, grazie a questa tenacia con cui da anni cerchiamo di capire, grazie all'aiuto di persone che vengono da fuori, a cui noi ci apriamo, speriamo, no? Anche alle critiche. Ieri sera, per esempio, è emerso questa voglia di capire se sbagliamo da qualche parte nella comunicazione, nell'approccio, o che so io. Noi siamo ormai abbastanza convinti, non mi piace usare il termine certi, perché siamo persone che coltivano il dubbio e che si mettono continuamente in discussione, no? A differenza magari di chi in questo momento governa questo paese, che sembra animato solo da certezze. Noi siamo abbastanza convinti che che queste opere servono soltanto chi le fa, cioè il vero beneficiario di queste grandi opere è chi le costruisce. Non c'è un'esigenza né trasportistica né ambientale. Non c'è ambientale perché il governo, anzi i governi italiano e francese, hanno smentito se stessi per i motivi che voi mi avete chiesto un momento fa di mettere a fuoco. Vale a dire, in realtà si costruisce il superfluo, e si costruisce il superfluo, si continua a costruire il superfluo anche e soprattutto per la gomma, mentre si annuncia di voler passare al ferro. E in più queste realizzazioni non fanno altro che aumentare le possibilità di concessione, di durata delle concessioni delle autostrade, che ormai sono molto più simili a delle proprietà che non a delle concessioni, vale a dire hanno durata indefinita. Non c'è una sola società autostradale in Italia che era partita con dei tempi di concessione stabiliti in 30 anni, che non abbia ormai superato il mezzo secolo di concessione. E sono tutti a 99 anni con possibilità di rinnovo. Infatti, in barba alle normative europee, che direbbero che dopo la scadenza queste concessioni dovrebbero essere messe a gara, no? Certo. Non se ne vede assolutamente non se ne vede, insomma, l'orizzonte di queste gare europee che dovrebbero rimettere le concessioni, insomma, un po' come quelle televisive, anche in condizione di rendere qualche soldo. C'è stato l'esempio proprio giorni fa degli stabilimenti balneari, no? Che l'Unione Europea ha detto, quindi perfetto, insomma, no? Mi sembra, ecco, un esempio. Si parla magari di stabilimenti balneari, ma non si parla di autostrade, certo. Di autostrade, perché forse i proprietari di stabilimenti balneari non sono una lobby meno, potente, indubbiamente, certo. Non sono una lobby potente come i costruttori, certo. Gestori di autostrade, no? Ecco, quindi la situazione è questa: chi costruisce per poi magari gestire, no, queste utility, lo fa perché quello che rende è soprattutto scavare, muovere, fare movimento terra. Sappiamo che nel movimento terra c'è anche una lobby ancora più potente che si chiama mafia, organizzata proprio. Che si chiama mafia, anzi mafie, no, al plurale ormai, sì. Bisogna parlarne. Quindi chi fa questo tipo di investimenti, chiamiamoli così, di solito ha dei ben precisi interessi, in qualche caso addirittura illegali, no? In qualche caso addirittura illegali e documentati, come sia come penetrazione sia come quantità di lucro che si riesce ad avere in questi settori, per non parlare della possibilità straordinaria di lavare i soldi sporchi, no? Come sanno bene i magistrati che sono in trincea sulla questione dell'antimafia, tra l'altro sempre più soli, sempre meno considerati dal potere politico, forse non a caso. E quindi è questo, insomma, cioè il focus, sì, che tu dicevi è esattamente questo, e credo che tu puoi aggiungere qualcosa, cioè se io ti chiedo chi sono le ditte che impegnate nel TAV e quelle impegnate nel Fregius, per esempio. Ma che gli affari in Val di Susa siano anche stati inquinati dalla criminalità mafiosa non è storia di oggi. La Val di Susa è un teatro di attività edilizie e nel campo soprattutto delle grandi opere da oltre mezzo secolo. Si comincia con quella che è forse la più grande diga d'Europa in terra, e non a caso in terra, non in calcestruzzo, perché si è mossa molta terra, si, certo, sono mossi milioni di metri cubi di terra in quella circostanza, che sta al Moncenisio, che sbarra una vallata che ha consentito di formare un lago artificiale che forse è il più grande d'Europa in quota, perché siamo a 2000 metri di quota e abbiamo sopra la testa noi valsusini, anche se non lo si dice mai, qualcosa come 300 milioni di metri cubi di acqua che servono ad alimentare delle centrali idroelettriche. Questa è stata forse la prima delle grandi opere che ha coinvolto la Val di Susa nei tempi moderni, se non andiamo a oltre 100 anni fa, no? Sì. E da allora in avanti noi siamo stati un cantiere perenne. In questo cantiere perenne la criminalità organizzata si è infiltrata fin dall'inizio, tant'è vero che Bardonecchia, anche se poi la storia è molto controversa e negli anni successivi insomma si è chiarito che alcune persone sono state esposte al pubblico ludibrio in modo del tutto errato, però quello che è rimasto certo è che Bardonecchia è stato il primo comune del nord Italia sciolto per infiltrazioni mafiose. Bisogna arrivare fino al 2011-2012 per avere una situazione analoga che ha riguardato i comuni di, non a caso anche qui secondo me, di Bordighera e di Ventimiglia, vale a dire sempre su aree di confine, no? Sì. E quindi su aree nelle quali si sono realizzate molte grandi opere. Ecco, quindi tutte le nostre grandi opere, su questo ci sono le sentenze passate in giudicato della magistratura, sono state inquinate da presenze mafiose poco raccomandabili che hanno ovviamente approfittato dove c'è denaro, dove ci sono flussi di denaro che girano, la criminalità si insinua, non è che lo scopriamo noi, scopriamo l'acqua calda, no? La cosa stravagante di questo inizio di lavori preliminari che riguarderebbero per adesso soltanto la realizzazione della galleria geognostica di Chiomonte è stato gestito dalla società incaricata di distribuire questi appalti senza gare, quindi senza le gare previste dalla legislazione europea, e anzi attraverso una legislazione affrettatamente approntata a livello regionale, chiamata per scimmiottare quel che avviene in Francia da moltissimi anni, quindi con altre garanzie, altri collaudi, Démarche Grand Chantier, con la scusa insomma di affidare alle imprese locali le briciole di questi lavori preliminari, non si è andati tanto per i sottile, si sono affidati i lavori a delle imprese che pure hanno come minimo, e anche qui parliamo di sentenze passate in giudicato, hanno avuto dei problemi di bancarotta fraudolenta, hanno avuto dei problemi sulla turbativa d'asta, vale a dire proprio sulla regolarità degli appalti. Questo sia stato possibile da parte di società che sono sostanzialmente pubbliche, anche se figurano essere società per azione, società in accomandita o società a responsabilità limitata, ma sono comunque costituite con il capitale azionario delle Ferrovie italiane e delle Ferrovie francesi, sto parlando di LTF, quindi di una società partecipata metà e metà dalle società ferroviarie dei rispettivi paesi, che a loro volta hanno un solo e unico azionista che è il Ministero del Tesoro di entrambi i paesi, quindi soldi totalmente pubblici. Come sia stato possibile che società con queste caratteristiche abbiano affidato a trattativa privata dei lavori, sia pure preliminari, sia pure briciole, a delle società con queste caratteristiche, a delle imprese locali con queste caratteristiche, non lo si può proprio capire, ed è uno dei motivi per cui in Val di Susa esiste molta frustrazione al riguardo, perché sembra che i cittadini siano criticati perché provano a eccepire su questi comportamenti discutibili. E quindi insomma mi sembra che questo lato oscuro, neanche tanto insomma oscuro tra virgolette, perché poi come dicevi giustamente tu non scopriamo l'acqua calda oggi, perché sono anni che queste infiltrazioni ci sono. Tutta questa parte però è coperta, credo, dai grandi nomi, dei soliti nodi delle ditte costruttrici, che probabilmente sono le stesse sia per quanto riguarda il traforo del TAV sia per quanto riguarda il traforo del Fregius. Assolutamente sì, non se ne è parlato in questo vertice tra Hollande e Monti, ma tra le cose che vengono continuamente ipotizzate da chi ha compiti di, al compito di preparare gli accordi che poi vengono di volta in volta sottoscritti, che in questo caso sono stati rinviati per l'ennesima volta perché di sostanziale non è stato sottoscritto nulla, lo ha persino ammesso il Sole 24 Ore in Italia, e se uno legge la stampa francese trova decine di articoli di insoddisfazione dell'Unione Industriali d'Oltralpe, degli ambienti delle Camere di Commercio, insomma degli operatori commerciali di Oltralpe rispetto all'esito di questo vertice. Dicevo, chi ha compiti di volta in volta, insomma, di preparare, di redare i documenti che poi saranno oggetto di ratifica parlamentare e così via, continua a ipotizzare che siano le società autostradali ad essere coinvolte nella realizzazione del tunnel ferroviario, sia dal punto di vista finanziario, perché il meccanismo di cui accennavo prima, vale a dire le concessioni a vita, no, che possono venire affidate a questi soggetti, consentono l'indebitamento, perché poi il problema è che queste opere si fanno a debito, no? Non si fanno mai con i soldi lì pronti in cassa. È un debito per tutta la popolazione italiana. È un debito per tutti i cittadini italiani, per questo dicevo non è un problema valsusino, no? Noi questo lo abbiamo ormai certificato grazie all'aiuto di tantissimi esperti molto quotati su questi argomenti. Ecco, allora queste grandi opere a debito hanno bisogno di una scatola che possa offrire delle garanzie, che possa vantare se non una AAA, perché qui la AAA ormai l'hanno persa tutti, l'ha persa soprattutto lo Stato italiano da parte delle agenzie di rating, ma possono diciamo avere le caratteristiche di solvibilità, sia pur magari soltanto teoriche, che consentano il montaggio finanziario, come lo chiamano nel gergo i proponenti di queste grandi opere, per cui dalla Banca Europea degli Investimenti agli istituti di credito privati di ogni singola nazione si mette in moto un qualcosa che andrà a gonfiare il debito pubblico come se già non lo fosse abbastanza, quindi i debiti a carico dei nostri figli, dei nostri nipoti, di quelli che addirittura verranno dopo, per avere un margine di manovra per poter partire con questi lavori costosissimi, no? Ecco, allora le società autostradali in quest'ottica sarebbero assolutamente coinvolte nella realizzazione. Se poi pensiamo che le società autostradali, il caso di quella della Val di Susa è emblematico al riguardo, è un caso di scuola, sono state acquistate la proprietà e di fatto ormai nelle mani delle imprese costruttrici, dalla Grassetto, ex Ligresti, oggi del gruppo Gavio, alle società che gravitano attorno al gruppo Benetton dal punto di vista delle costruzioni e così via, è evidente che a questo punto realizzare queste grandi opere conviene sempre gli stessi, grandi sempre gruppi bancari e i grandi gruppi di imprese costruttrici, che sotto questo aspetto in Francia, se possibile, sono ancora più potenti che in Italia. La dimensione media di un'impresa italiana, delle più grandi, ho parlato prima del gruppo Gavio, è ridicola rispetto alla dimensione, al fatturato, alla potenza finanziaria di gruppi come Vinci in Francia, come Bouygues, come Eiffage e tantissime altre società, per non parlare dei gruppi bancari BNP Paribas, no? Eccetera, che si stanno acquistando le banche italiane una dopo l'altra, insomma, e che quindi fanno shopping in Italia, esatto. Benissimo, Claudio, io ti ringrazio per questo tuo contributo così dettagliato e specifico. Ovviamente qui da Roma stanno per la manifestazione dell'8 organizzandosi Pulma, quindi insomma questa dimensione nazionale della manifestazione di sabato prossimo 8 c'è senz'altro, come c'è del resto da tempo la dimensione nazionale della vostra lotta su in Val di Susa. Quindi a buon risentirci per una buonissima manifestazione per l'8 prossimo 21. Sì, speriamo che non abbia le caratteristiche di quella di Lione, insomma, dove siamo stati messi in gabbia come lo zoo. Sì, io penso proprio di no, insomma, che questa volta sarà diversa la cosa. Insomma. Come dicevo, noi abbiamo cercato anche di dare questo respiro, questa dimensione con l'iniziativa della sera di carattere euromediterraneo, perché noi pensiamo che la dimensione di questi problemi, insomma, non sia affrontata. Sì, no, è sicuramente transnazionale, certamente. Assolutamente sì, le dinamiche sono le stesse dappertutto, le multinazionali sono sempre più organizzate su scala globale e quindi anche le lotte devono avere un po' questa dimensione, dobbiamo sperare, insomma, di fare dei progressi. Differentemente davvero saremo chiusi nel nostro cortile sotto questo aspetto diciamo che noi non abbiamo fatto nulla perché la nostra lotta diventasse un elemento di coagulazione da parte di tante altre lotte, di tante speranze che ci sono nel nostro paese, non solo nel nostro paese, perché ci siamo aperti alle lotte che ci sono in Francia, in Spagna, in Germania e che hanno le stesse caratteristiche e abbiamo scoperto che anche i problemi sono gli stessi. Certo. Noi non abbiamo fatto altro che cercare di guardarci attorno. Se siamo diventati un simbolo, lo siamo diventati un po' nostro malgrado. Sentivo stamattina in una trasmissione televisiva che è appena terminata il professor Marco Revelli dire che probabilmente in Italia il movimento Notava ha supplito ha surrogato in qualche modo una non crescita di un movimento come i vari movimenti Occupy, non credo si dovrebbe dire, che hanno caratterizzato molte altre piazze europee, no? È chiaro che se dovessimo rappresentare questo tipo di cosa non avremmo assolutamente la forza e forse non avrebbe neanche senso, insomma, che noi si rappresenti questa cosa, ma se anche attraverso la longevità di questa nostra lotta, le caratteristiche che abbiamo cercato di darle, insomma, in Italia si riuscirà ad essere più coesi, non potremo che rallegrarci. Benissimo, io ti ringrazio di nuovo e a risentirci. Grazie per questo dialogo. Grazie a voi, grazie alla pazienza che avete avuto ad ascoltare il mio lunghissimo intervento. Va bene, grazie, ciao, a risentirci. Ciao.